Sì, è un fatto abbastanza nuovo, diciamo, nella storia recente o perlomeno dell'ultimo secolo, se non altro, dell'ultimo paio di secoli, che l'Occidente cerchi delle risposte non al proprio interno ma al di fuori dei propri confini. È una circostanza che questa crisi sanitaria, che poi diventerà certamente crisi economica o perlomeno un periodo di grosse ristrettezze economiche, beh, in questa fase ci siamo accorti dell'Oriente, abbiamo chiesto risposte a queste domande che non ci siamo tradizionalmente posti proprio ai paesi orientali, che per primi avevano posto in essere strategie di risposta alla pandemia di coronavirus. In particolare tu individui tre elementi, diciamo, su cui la risposta ad esempio di Cina o di Corea si è rivelata piuttosto efficace, anche in virtù del fatto che altre epidemie avevano, questi paesi le avevano già affrontate. Le tre dimensioni che individuo sono lo spazio, il tempo e la dimensione politica della crisi sanitaria. In particolare, per quanto riguarda lo spazio, segnalato che la Cina ha tracciato un po' il percorso, nel senso che è riuscita con successo a contenere sostanzialmente il grosso dei contagi nella provincia dello Hubei, dove si trova Wuhan e dove tutto è nato. Mentre per quanto riguarda la gestione dei tempi, la Cina ha avuto qualche problema grosso, nel senso che i primi casi di coronavirus apparentemente possono essere rinvenuti già a novembre del 2019. Notizie circolavano in maniera abbastanza, diciamo, sostenuta già nel dicembre del 2019, e la prima misura di contenimento forte, quindi il lockdown di Wuhan, si è avuta soltanto il 23 gennaio del 2020. Quindi, insomma, la gestione dei tempi non è stata ottimale da parte delle autorità cinesi, mentre per quanto riguarda la Corea del Sud abbiamo assistito a uno sforzo incredibilmente positivo, nel senso che se ai primi di febbraio il paese più esposto dopo la Cina era la Corea del Sud, alla fine di febbraio si ha già una stabilizzazione sostanziale dell'andamento della malattia, come attraverso una somministrazione su ampia scala ma mirata di tamponi. Segnalo anche che sui tamponi c'è stata molta indecisione in Italia, sia da parte delle autorità nazionali sia da parte delle autorità regionali, che poi sono quelle che sul terreno de facto vanno a implementare le misure sanitarie. Si è detto che non serviva a niente, che non sarebbe stato troppo dispendioso portare avanti le analisi, eccetera, eccetera. Adesso si è cambiata idea, peraltro si continua a cambiare idea, si fa gli asintomatici, non si fa gli asintomatici, con quanti sintomi, evidentemente c'è stata una presa di coscienza un po' tardiva e in questa fase probabilmente troppo tardiva. La terza dimensione che individuo è quella della dimensione che dicevo politica della crisi sanitaria, nel senso che questa pandemia ci ha insegnato che, insomma, la malattia non investe semplicemente, o quantomeno se non meno drammaticamente, ma comunque non investe soltanto la sfera dell'individuo, quindi la sfera individuale, ma è un processo collettivo e quindi richiede necessariamente uno sforzo politico per essere affrontata. Su questo ultima ti vorrei fare un'ulteriore domanda per capire se è proprio un approccio culturale diverso quello di considerare la salute come appunto attinente alla sfera politica, o è la contingenza che lo ha dettato? La domanda, diciamo, non è di facile risposta. Direi che probabilmente c'è un concorso dei due fattori, per cui sicuramente la matrice culturale dei popoli dell'Asia orientale, quindi la matrice sicuramente molto più improntata al collettivismo rispetto alla tradizione europea, aiuta a vivere, diciamo, processi in modo più per l'appunto collettivo. La contingenza, cioè la pandemia, è di per sé in quanto epidemia che diventa pandemia, è di per sé un evento collettivo. Quindi abbiamo, come dire, sia componenti strutturali che componenti anche congiunturali. Una cosa che segnalo, che sta, insomma, al giudizio di ognuno di noi incasellare o da un lato o dall'altro, per cui se sia strutturale o congiunturale non lo so, però diciamo che le esperienze pregresse, in particolare quella della SARS del 2003, ha insegnato ai paesi dell'Asia orientale, dove si è sostanzialmente concentrata, l'unico paese occidentale toccato in maniera sostanziale fu il Canada. Questa esperienza insegnò a questi paesi che intanto l'epidemia non è soltanto un'ipotesi da manuale di medicina o epidemiologia, ma è una realtà concreta che necessita di protocolli, pratiche e paradigmi politici da porre in essere in determinati spazi e in determinati tempi al fine di contrastare un'evoluzione fuori controllo dell'epidemia. Di questa esperienza si è fatto tesoro, e non si è fatto tesoro in Occidente. Questa è una grande differenza, ed è un'altra, diciamo, motivazione che mi spinge a mettere in dubbio, o mi spinge a interrogare me stesso e anche, diciamo, noi come parte del mondo occidentale, rispetto a quanto effettivamente si è autosufficienti politicamente rispetto ai tempi che corrono, simboleggiati in qualche modo da questa pandemia. Ovvero, abbiamo sempre considerato, evidentemente, e fino all'ultima pandemia, fino a che non è arrivata qui da noi, abbiamo sempre considerato, tradizionalmente considerato, questi eventi come lontani da noi, e quindi non si è sentita la necessità di porre in essere quelle misure che anche ipoteticamente si sarebbero rivelate necessarie per contrastare alcuni fenomeni. Cosa che invece è stata fatta in Asia, per cui ovviamente si tratta di esperienze che hanno supportato la risposta di questi paesi. Noi abbiamo avuto il tempo di imparare non soltanto dalla SARS, ma più recentemente anche dall'evoluzione dell'epidemia, ancora epidemia, di Covid-19 in Asia e in particolare in Cina. C'è un bellissimo articolo di Adrian Johnson sul New York Times il 13 marzo dal titolo molto emblematico, dice sostanzialmente la Cina ha dato tempo all'Occidente e l'Occidente lo ha sostanzialmente sprecato, per cui in questa finestra temporale di qualche settimana in cui si è potuto, se non altro, abbozzare un qualche tipo di risposta a quello che sarebbe potuto succedere e che poi è diventato triste realtà, non è stato fatto. L'Occidente ha perso un sacco di tempo e moltissime opportunità, purtroppo.